Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e un ben ritrovati a tutti alla nostra trasmissione. Oggi ritorniamo sulla previdenza complementare. Qualche puntata fa, intorno al mese di novembre, avevamo riparlato di questo argomento analizzando una tendenza abbastanza interessante che si era manifestata nel 2010, quando c'erano state molte fuoriuscite da parte di migliaia di lavoratori, migliaia, forse qualche centinaia, diciamo un po' meno, da alcuni fondi di categoria alla previdenza complementare e privata. Poi altre trasmissioni le avevamo invece dedicate al tema dei rendimenti dei fondi pensione e avevamo riscontrato come quella che viene definita la pensione di scorta sia riuscita a battere, anche se di poco, la liquidazione, vale a dire il TFR, il trattamento di fine rapporto mantenuto in azienda. Chi non ha voluto rischiare, scegliendo dei profili di investimento estremamente prudenziali, si è dovuto accontentare anche di un po' meno. Comunque, sulla base dei dati raccolti da Asso Fondi Pensione, nel 2010 è stato pari al 3,1% il rendimento medio offerto dai fondi pensione chiusi, cioè quelli aziendali, quelli di categoria. Il trattamento di fine rapporto nello stesso periodo ha reso invece il 2,6% al netto dell'aliquota fiscale che va versata all'11%. Questi sono i dati, naturalmente lo ribadisco, sono delle medie, pertanto se poi ognuno va a fare una valutazione individuale della propria posizione riscontrerà presumibilmente, probabilmente, dei dati, dei risultati diversi. Questi sono i dati, dicevo. Accanto ai numeri però ci sono anche altre questioni aperte che riguardano il tema della previdenza complementare, in particolare il tema della sensibilizzazione dei lavoratori sulla necessità di costruirsi una pensione di scorta. La COVIP, che è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, sta intraprendendo un percorso molto incisivo, molto serio, per avvicinare i lavoratori alla previdenza integrativa. Non perché prima non lo abbia fatto, naturalmente, ma perché adesso sarà proprio un po', nei prossimi mesi, presumibilmente, il cavallo di battaglia di questa istituzione. E allora, come si concretizzerà questo percorso? Quali iniziative in programma? Che tipo di aiuto concreto da questa iniziativa potrà arrivare ai lavoratori, soprattutto a quelli indecisi? E la domanda di sempre è anche perché c'è ancora questo distacco fra lavoratori e pensione di scorta, la previdenza complementare. Sono tutti i temi che stamattina affronteremo, prima di tutto con il presidente della COVIP, che saluto, dottor Antonio Finocchiaro. Presidente, buongiorno e grazie di essere ritornato a Salva Danaio. Avevamo già avuto una sua presenza diverso tempo fa, quindi è un gradito ritorno. Il suo buongiorno. Grazie, dottoressa, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie anche a lei, presidente, e a supportarci questa mattina anche lui, per rispondere a tutte le domande degli ascoltatori, Giuseppe Romano, responsabile dell'ufficio studi della società di consulenza indipendente Consultic. Romano, buongiorno. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, ovviamente, microfoni aperti per gli ascoltatori per intervenire in diretta questa mattina all'800 24 00 24. Potete sicuramente rivolgerci le vostre curiosità su questa campagna di informazione istituzionale che la COVIP si accinge a fare con diverse iniziative, con quali motivazioni poi lo sentiremo, e poi tutto ciò che ancora è nell'ambito dei vostri interrogativi sulla previdenza complementare, chiamateci anche per questo, perché anche su questo, appunto, Salva Danaio stamattina è disponibile a darvi un aiuto, come tantissime volte abbiamo fatto in passato. Se non volete chiamarci, ci potete scrivere come sempre al 349 238 6666 per i vostri sms o delle mail un po' più articolate all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Sentiamo un riepilogo della questione nella nostra scheda. Dopo la riforma del sistema previdenziale italiano, c'è chi pensa a come integrare la propria pensione, che alcuni ritengono sarà esigua, in modo da riuscire a mantenere un tenore di vita soddisfacente anche una volta terminata l'attività lavorativa. E anche chi fino a poco tempo fa non considerava l'idea di stipulare un fondo pensione, oggi ci pensa su. Con un rendimento medio ponderato del 3,05%, nel 2010 i fondi pensione negoziali hanno superato il 2,61% messo a segno dalla rivalutazione del trattamento di fine rapporto rimasto in azienda. Sul fronte dei rendimenti, i fondi pensione registrano dunque risultati soddisfacenti. Le note dolenti arrivano dal calo delle adesioni provocato dal deterioramento delle condizioni economiche generali e dalla conseguente contrazione del tasso di occupazione. In Italia il numero di iscritti a fine 2010 è diminuito dell'1,8% rispetto al 2009 e dell'1,5% rispetto al 2008. Un segnale dunque che dimostra il calo di attenzione nei confronti della previdenza complementare. Ecco perché la stessa COVIP, l'istituto che vigila sui fondi pensione, ha deciso di impegnarsi in prima linea sul tema dell'educazione previdenziale per colmare un buco comunicativo che ha tenuto lontano dai fondi pensione oltre un quarto dei lavoratori privati italiani. 800 24 00 24, vi ricordo come sempre il numero verde per intervenire. Andiamo subito nel merito della questione. Presidente Finocchiaro, Antonio Finocchiaro, presidente della COVIP, l'abbiamo definita nella nostra scheda un impegno in prima linea per la COVIP, per appunto divulgare al massimo tutto ciò che attiene alla previdenza complementare, che ha vissuto delle fasi più o meno felici nell'ultimo periodo nel nostro paese, da quando appunto c'è stata la riforma del TFR che ha dato l'opportunità ai lavoratori italiani di trasferire la liquidazione che stava maturando, che maturerà appunto in relazione al proprio lavoro, negli strumenti di previdenza complementare. Ci spiega un po' come si concretizzerà questo vostro percorso, soprattutto come mai vi è venuto in mente appunto di intraprendere in maniera così incisiva un'iniziativa di questo tipo? Sì, noi saremo presenti in più occasioni nei mesi di aprile e maggio. Ai primi di aprile saremo presenti al Salone del Risparmio che si terrà a Milano. Ai primi di maggio alla Giornata Nazionale della Previdenza che si terrà sempre a Milano, poi parteciperemo al Forum della Pubblica Amministrazione che si terrà in maggio a Roma e poi nel quadro di un'iniziativa avviata dal Ministero del Lavoro, una giornata per il futuro, ci sarà la nostra relazione. Nella giornata del futuro ci saranno altre iniziative di enti previdenziali e anche credo nei diversi ordini scolastici. Questa è la presenza, le ragioni sono state già in un certo qual modo anticipate da chi mi ha preceduto. Noi stiamo cercando occasioni di incontro per poter incontrare i visitatori delle varie iniziative, i partecipanti alle nostre iniziative, parlare della previdenza complementare, parlare degli strumenti della previdenza complementare, parlare dei vantaggi che la previdenza complementare, vantaggi anche di natura fiscale che la previdenza complementare può offrire agli aderenti alla stessa. Parlare anche di ciò che facciamo nella direzione della trasparenza dei rapporti fra fondi e aderenti, fondi iscritti, che come è stato detto sono in una condizione di relativo stallo, anche se negli ultimi mesi dello scorso anno qualche segnale di risveglio c'è stato, le adesioni globalmente sono cresciute del 5,4%. Su che periodo, Presidente, mi scusi? Su che periodo c'è stata di nuovo questa inversione di tendenza? La sento poco, guardi. Peccato, adesso lo cerchiamo un attimo. No, mi dica. Un po' meglio. No, chiedevo, questo più 5,4%, volevo capire a che periodo si riferisse. Si riferisce a tutto al rapporto fra le adesioni a fine 2009 e le adesioni a fine 2010. Cioè nel corso dell'anno le adesioni sono cresciute globalmente per la somma delle forme pensionistiche del 5,4%. Naturalmente questa cifra globale che nasconde delle differenze notevoli, i fondi negoziali, come è stato detto, sono scesi in termini di adesioni di 1,4, 1,5, invece i fondi aperti e sono aumentati del 3,3, 3,4, e invece i PIP, piani individuali pensionistici, sono aumentati del 27-28%. E infatti è un tema che avevamo proprio analizzato specificatamente in questa puntata che ho citato in novembre, cercavamo proprio di capire le ragioni di questa tendenza, perché più che effettivamente aumentare la quota complessiva degli iscritti alla previdenza complementare si verifica questo fenomeno interessante, chiamiamolo così, e curioso, per il quale effettivamente dalle forme di previdenza, dai fondi di categoria, praticamente i lavoratori si spostano verso le forme appunto private. Questa tendenza, Presidente, lei come la commenta? Dottoressa, io direi che più che spostarsi, in parte è vero, qualcosa si sposta, ma più che spostarsi giustificherei gli andamenti con questa affermazione, cioè la crisi economica che ha inciso sul sistema produttivo italiano evidentemente ha avuto dei riflessi secondari sulle adesioni alle forme negoziali, dalle quali una parte degli aderenti è uscita perché? Perché evidentemente o perché in cassa integrazione o perché espulsa dal sistema produttivo ha dovuto ricorrere al montante accumulato nei fondi pensione per far fronte alle esigenze più urgenti. Invece i piani individuali pensionistici si rivolgono a un bacino di utenza diversa, cioè i lavoratori autonomi, i professionisti e via dicendo. E questo significa che evidentemente in questi settori la crisi, anche se ha inciso, non ha inciso al punto tale da far diminuire o far stabilizzare o lasciare in una situazione di stallo le adesioni. Naturalmente devo ricordare che nel mondo della pensione del sistema pensionistico complementare si opera con una, o si dovrebbe operare con una leale concorrenza. Ora, non escludo che ci possano essere casi in cui questa concorrenza non è stata totalmente reale. Ah beh, insomma, aspetto interessante, Presidente. Guardi, mi voglio riservare di approfondire questo aspetto nella seconda parte della trasmissione, perché lo ritengo molto interessante, anche per dare magari qualche indicazione anche ai nostri ascoltatori nel capire quando magari vengono così convinti nella sottoscrizione di un prodotto di previdenza complementare in maniera non del tutto trasparente e chiara. Quindi è molto interessante il punto di vista della COVIP. Quello che però le volevo chiedere, Presidente, per andare poi a questi punti centrali, è ritornare un attimo alla vostra campagna, perché lei ci diceva, insomma, la COVIP sarà al Salone del Risparmio della prossima settimana. Anche noi stiamo facendo una campagna per così spiegare le parole del risparmio gestito ai nostri ascoltatori. Sarete alla Giornata Nazionale della Previdenza dei primi di maggio, ma a noi sembra abbastanza scontato che la COVIP dal punto di vista istituzionale sia presente a questi appuntamenti. Qual è dunque la novità sulla quale puntate? Guardi, io direi che non è proprio naturale che la COVIP partecipi, perché la COVIP è un'autorità di vigilanza sui fondi pensione, quindi diciamo che uno sforzo maggiore nella direzione della crescita delle adesioni deve essere fatta dai fondi, dalle varie forme pensionistiche. Però la COVIP ha deciso di scendere in campo perché lo è fatto in un quadro di abbastanza generalizzato fra le autorità di vigilanza, Banca Italia, Consob, Bisvap e compagnia bella, perché è convinta che questo paese, che i cittadini di questo paese abbiano bisogno di cultura finanziaria e nell'ambito della cultura finanziaria di cultura previdenziale, di informazione e cultura previdenziale. Ecco, per fare cultura previdenziale o informazione e informazione previdenziale abbiamo deciso di scendere in campo. Ecco, quindi cultura previdenziale a 360 gradi, ovviamente tanto per rispondere anche a qualche ascoltatore che magari ci sollecita in questo senso. Non è che la COVIP scende in campo perché dice dovete sottoscrivere il fondo pensione chiuso o quello aperto o la forma individuale di previdenza. L'importante è che siate consapevoli del fatto che le future generazioni dovranno integrare la propria pensione pubblica, Presidente, mi corregga se sbaglio. Detto, perché guardi, quella non sarà più sufficiente, ecco. Non sarà sufficiente, quindi l'importante è che le nuove generazioni in particolare, è chiaro, comincino a pensare al proprio futuro, cominciano a pensare che il proprio futuro è nelle loro mani, non si devono attendere interventi miracolistici da parte di chi che sia, governo, Parlamento, cioè, il futuro è nelle mani di ciascuno di noi, nelle mani di ciascuno dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Arriverei a dire che anche nelle mani di chi nel mondo del lavoro non è ancora entrato, qualora i genitori potessero addossarsi l'onere dell'iscrizione. Solo che è una fase già talmente delicata che le famiglie si stanno addossando già dal punto di vista sociale tante difficoltà delle giovani generazioni, appunto, che in questo momento fanno fatica ad entrare nel mondo del lavoro. Però, insomma, detto questo, non è detto che non si possa partire anche con delle cifre modesta, adesso vedremo. Tanto per confermare, adesso devo andare in pausa, poi ovviamente nella seconda parte riprendo anche con Giuseppe Romano, quanto a volte poco si conosca di questo argomento, anche magari per delle posizioni prese, per dei pregiudizi. C'è un ascoltatore che a caratteri cubitali mi scrive: basta prendere in giro la gente, e non usa il termine in giro, non si riesce nemmeno a vivere con il lavoro, come si paga la previdenza complementare? Allora anche lì, insomma, non si deve versare niente individualmente, a meno che non si voglia integrare ulteriormente. Qui stiamo parlando del TFR che viene trasferito, non viene tenuto in azienda, ma viene trasferito in un fondo di previdenza o in uno strumento di previdenza complementare, per cui di suo non ci deve mettere niente, è un travaso del TFR, per cui anche lì, insomma, proprio per dimostrare che non tutto di questo meccanismo si conosce. Eccoci ritrovati in diretta, questa mattina siamo ritornati sul tema della previdenza complementare per rifare un po' il punto della situazione sulle adesioni dei lavoratori italiani agli strumenti che permettono di costruirsi una pensione di scorta, più che parlare però stamane di, come dire, rendimenti, di profili di rischio e quant'altro, quello che ci interessa capire è ancora quali sono ancora le maggiori resistenze dei lavoratori alla sottoscrizione di questi fondi di previdenza complementare, di strumenti di previdenza complementare, e abbiamo deciso di ritornare su questo tema perché la COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, sta intraprendendo un percorso per avvicinare i lavoratori alla previdenza integrativa, e il presidente della COVIP stamattina con noi, Antonio Finocchiaro, ci ha spiegato tutte le motivazioni che hanno indotto la COVIP appunto ad una mossa, ad una appunto ad un'iniziativa di questo genere. Adesso con Giuseppe Romano, responsabile ufficio studi della società di consulenza indipendente Consultic, direi di cominciare a rispondere anche alle osservazioni dei nostri ascoltatori, sempre in tema di comunicazione fatta e di divulgazione scientifica, finanziaria, fatta in questi anni su questi temi. Vorrei subito raccogliere quella di Francesco da Milano, che saluto e gli auguro il buongiorno. Francesco. Buongiorno, niente, io volevo solo chiedere, non dovrebbe essere lo Stato a fare una campagna pubblicitaria o comunque sia a informarci del fatto che la previdenza complementare è una cosa indispensabile? Perché io questo non vedo guardando le televisioni e leggendo i giornali, o perlomeno è comunque una minima parte. Volevo chiedere inoltre della carta arancione di cui avete parlato tempo fa. La busta arancione, sì. La busta arancione, esatto. E oltre, l'ultima cosa, se non temete il fatto, facciamo finta che domani tutti cominciano a fare previdenza complementare, non c'è il rischio che si assottiglino ancora di più i consumi? Ah, Francesco, qua addirittura lei ci apre, come dire, un osservatorio un po' più impegnativo. Vediamo se riusciamo magari anche a rispondere alla terza domanda. Andrei subito alla ciccia delle prime due. Giuseppe Romano, coinvolgo lei sul tema della comunicazione istituzionale fatta anche dallo Stato, dal governo in qualche maniera, perché sicuramente Giuseppe, che è un amico che conosco da anni, se lo ricorderà, tutte le trasmissioni che abbiamo fatto nel famoso semestre del silenzio assenso, una campagna istituzionale ci fu. Non era però, non dico molto chiara, adesso non voglio neanche più esprimere un giudizio su una cosa del passato, però forse non era sufficiente mandare in onda sulle reti Rai uno spot che non spiegava esattamente molto bene la portata della rivoluzione che in quel momento stava interessando milioni di lavoratori. Lei se la ricorda? Francesco dice perché insomma poi non è stato fatto più niente a saperlo. In effetti è partita quella campagna, poi si è un po' fermati. Adesso mi fa molto piacere che comunque anche con queste iniziative tra aprile e maggio comunque si riprende il tema, anche perché più passeranno gli anni più si ci renderà conto quanto è importante la previdenza complementare, visto che nel lungo periodo comunque le pensioni pubbliche purtroppo scenderanno. Attualmente ancora non ce ne accorgiamo perché chi sta ancora andando in pensione va ancora col vecchio metodo di calcolo retributivo, però a fianco a questo comunque io penso che il sistema pubblico deve fare qualcosa in più anche a livello normativo. Si pensa ad esempio, adesso si sta lanciando tutta la previdenza per i pubblici, il pubblico, quindi per i lavoratori pubblici, quindi sono, si è partiti con Espero per quanto riguarda gli insegnanti, si sta partendo con Perseo per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali, si parte anche con Sirio, che è il fondo pensione per il Ministero, quindi per coloro che lavorano al Ministero. Però allo stesso momento non è stato fatto ad esempio una norma di raccordo che dà la possibilità a questi soggetti che dovranno aderire ai fondi negoziali di avere gli stessi benefici fiscali che hanno i dipendenti privati. Quindi cosa succede? Non avendo ancora fatto questa norma, è ovvio che è preferibile aderire ad un fondo pensione aperto come adesione individuale oppure a un FIP che invece aderire al fondo negoziale. Quindi sono tutto un insieme di norme in più che comunque dovrebbero essere fatte per e dare colmare queste attenzione. Disparità appunto intanto fiscali che sono essenziali ovviamente anche che sono delle come dire variabili fondamentali quando si tratta di scegliere un profilo di investimento piuttosto che un altro. È chiaro che se la fiscalità non è incentivante non aiuta nella scelta il lavoratore. Che cos'è la busta arancione, Romano? La busta arancione concettualmente è uno strumento molto utile perché comunque dà una proiezione di quello che è la pensione maturata ad una certa data. È ovvio che bisogna comunque prendere questi strumenti un po' con le pinze proprio perché c'è un problema di calcoli, quindi di proiezioni utilizzando un insieme di ipotesi e di variabili sottostanti. Cosa significa? Che nel rispetto di tutte quelle variabili, quindi nel lungo periodo, se tutte quelle variabili verranno rispettate, effettivamente si avrà quel livello di pensione. Il problema è che quando ragioniamo su orizzonti temporali lunghissimi di 30, anche di 40 anni, bisognerebbe rivedere comunque le variabili ogni anno e fare i relativi aggiustamenti ad persona, quindi personalmente applicarli poi sulla realtà individuale, effettivamente su quello che si è maturato e non solo poi sulle proiezioni. Ma questa è una busta che deve arrivare nella casa di ogni aderente ad un strumento di previdenza complementare per capire che tipo di situazione ha maturato? Sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Però ancora non mi pare che sia partita. Ancora non è partita, però comunque siamo sulla buona strada. Allora, sono indecisa, no, prima di sentire un attimo gli altri ascoltatori volevo ritornare su un punto abbastanza caldo, mi pare di capire, che avevamo lasciato in sospeso con il presidente della Covip, con Antonio Finocchiaro, perché commentavamo i tassi di adesione agli strumenti di previdenza complementare, che sono ritornati complessivamente a crescere con delle situazioni molto differenziate a seconda che si parli del fondo negoziale, cioè quello di categoria, del fondo aperto, del piano individuale previdenziale, i FIP e i PIP, e però il presidente Finocchiaro diceva certo che se sul mercato tra gli attori del sistema ci fosse una concorrenza, l'ha detto un po' sorridendo a mezza bocca, più leale, forse le cose andrebbero diversamente. Cosa deve fare questo mercato per essere lealmente competitivo, presidente? Quali storture nota come presidente di un'autorità appunto di controllo su questo mercato che appunto vigila su questo? Guardi, innanzitutto c'è un problema di vicinanza ai lavoratori. Mi spiego, i piani individuali pensionistici, in genere gestiti da compagnie di assicurazione, possono contare su una rete di promotori finanziari. C'è gente che ha un contatto diretto con il lavoratore, anche con quelle categorie che ho indicato prima, autonomi, professionisti e via dicendo, e quindi ha un contatto diretto che è molto importante nel convincere i lavoratori, da qualunque categoria si appartengano, per entrare in un fondo pensione. E questo non esiste invece per i fondi aperti e non esiste per i fondi negoziali. Vorrei chiarire subito, naturalmente, che la crisi che ha investito il nostro paese negli ultimi anni ha fatto passare in seconda linea rispetto ad altri problemi più gravi, la disoccupazione, la chiusura delle aziende, eccetera, eccetera, l'impegno che le fonti istitutive, per fonti istitutive significa le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro, avevano dedicato a metà degli anni 2000 al problema della previdenza complementare. Quindi ci deve essere, a mio parere, ci vorrebbe, al di là dei problemi di crescita, dai problemi occupazionali che indubbiamente incidono pesantemente sulle adesioni, ci vorrebbe un impegno maggiore, un impegno più diretto, un impegno partecipativo, cioè tutto quello che può servire a illustrare al lavoratore è quello che ho detto all'inizio: che cosa è la previdenza complementare, gli strumenti della previdenza complementare, i vantaggi che se ne possono ricavare. Aggiungo una leggera correzione rispetto a quanto è stato detto, che quella famosa busta arancione non riguarda la previdenza complementare, dovrebbe riguardare la previdenza obbligatoria, quella INPS, con tutte le riserve che sono state elencate in precedenza. I fondi pensione già offrono ai propri aderenti, attraverso un progetto esemplificativo personalizzato, offrono già una previsione, una stima, no? una stima di quella che può essere la pensione di qui a 30 anni, a 20 anni. Attualmente, come tutte le stime sono basate su determinati parametri e, come è stato detto, i parametri variano in relazione all'andamento dei mercati dove poi si investono i montanti accumulati, ma ci fa già un'idea, e un lavoratore ha un altro strumento per capire quale scelta fare. Sul sito della Covid, da pochi mesi, e quindi facilmente accessibile, ci sono tutti i rendimenti a 1, 3, 5 anni delle varie linee di investimento effettuate da tutti i fondi, da ciascun fondo. Quindi c'è la possibilità per un lavoratore interessato e che ha una piccola pratica con un computer di fare dei confronti fra le linee obbligazionarie, fra le linee azionarie, fra le linee miste offerte dai diversi fondi. È un dato importante nella direzione della trasparenza questa, perché il confronto permette di fare dei confronti su dati certificati dalla Covid, quindi non chiacchiere oppure attese miracolistiche del futuro. Ci sono dati effettivi, i rendimenti raggiunti. Allora, Romano voleva aggiungere qualcosa relativamente alla busta arancione per la quale abbiamo fatto la precisazione? Assolutamente, quindi perciò dicevo le variabili da stimare sono elevatissime, sono molto spesso quella sul metodo del calcolo pubblico fatto dall'INPS sono molto più alte e ci sono più rischi di imprecisione rispetto addirittura a quelli della previdenza complementare, perché le variabili veramente sono tante, quindi si parte da quello che è l'inflazione, anche lì ci sono la questione dei coefficienti di conversione in rendita, il problema qual è? È la stima del reddito futuro dell'aderente e quindi dei contributi effettivamente che verranno poi versati, spesso ci sono dei cambiamenti anche lavorativi. Infatti, allora lascerei per adesso l'ascoltatore ci chiedeva anche un commento sulla stima possibile andamento dei consumi se tutti i lavoratori aderissero in massa alla previdenza complementare, lascerei poi vediamo alla fine se riusciamo a fare un commento su questo. Sentirei la domanda di Luigi da Firenze che aspetta da un po', poi magari gli rispondiamo dopo i suggerimenti perché in viaggio. Luigi. Sì, io alla domanda sulle televisioni, io farei Radio 24 in televisione dalla mattina alla sera, perché veramente voi ci aprite il cervello e anche a me, per merito vostro, nel 2007 con la legge di Prodi, io calcolate praticamente sono in una ditta sotto i 15 operai, quindi non era rivolta a me, era rivolta in silenzio assenso su quelli del 50. Oltretutto praticamente il problema che ci sta sul fondo pensione, poi arriva la domanda, è che la gente ha paura di lasciare i propri soldi in ditta perché ha paura che in un certo lasso di tempo possono servire, però la legge è uguale sia sul fondo pensione sia su quelli delle ditte. Esatto, dopo 8 anni si possono, si può fare l'anticipazione, certo. Ecco, oltretutto io sul mio fondo pensione, che ho un PIP aperto, la domanda era questa, cioè io scarico anche, ho la detrazione fiscale oltre all'interesse, oltre a quello che verso, oltre alla mia pensione del futuro, ho anche una detrazione fiscale a mio vantaggio che ogni anno mi aggiunge anche cosa. Quindi la domanda che io faccio è questo: se io devo passare da un PIP aperto, cioè da dove sono adesso, a un altro, in quali spese incorro, se c'è tipo un discorso di scuola? A che condizioni in sostanza viene il trasferimento della sua posizione? Dire, la portabilità. Sì, e l'ultima cosa, ho finito, per quanto riguarda l'operatore che me lo aprì, c'è anche questo come problema. Tanti operatori, vi garantisco che sono non ignoranti ma quasi, perché praticamente quando gli fai determinate domande su il futuro eccetera, questi non ti rispondono. C'è anche questo il problema, che tanti operatori non sono in grado di consigliare gli operai. Chi ha praticamente un commercialista ce la fa, ma chi è un operaio è difficile intravedere tutte queste cose. Io sono un giovane che vado su internet e grazie a Radio 24 so come funziona. E poi anche noi, voglio dire, di errori ne facciamo tanti, qualche inesattezza, anch'io per esempio tutti i termini della busta arancione non me li ricordavo, per cui Luigi, comunque siamo qua per imparare e rivendichiamo anche un po' il diritto alla nostra ignoranza, che può essere colmata in ogni momento. Di strumenti ne abbiamo tantissimo. Adesso comunque sulla previdenza complementare parte a tamburo battente la campagna della Covip, e allora poi sulle domande invece proprio molto concrete che Luigi ci ha fatto rispondiamo dopo i suggerimenti perché in viaggio. Allora, Giuseppe Romano, vengo subito a lei per commentare la situazione di Luigi da Firenze, che subito nel concreto chiede, ci ha raccontato che ha aderito in maniera, mi è sembrata, estremamente consapevole allo strumento di previdenza complementare prescelto, qualche dubbio sul tema della portabilità degli strumenti di previdenza complementare. Lui ha un fondo aperto, ammettendo che ne scelga un altro, appunto come può trasferire la sua posizione, perde vantaggi fiscali, dopo quanto tempo dall'iniziale sottoscrizione in uno strumento si può fare il trasferimento in un altro strumento di previdenza integrativa, Romano? Allora, la domanda è molto, molto interessante, perché il lavoratore chiedeva gli eventuali costi del trasferimento, mi sembrava di aver capito che aveva un FIP. Allora, dobbiamo capire una cosa, quando effettuiamo un trasferimento che si può fare volontariamente, se lui ha detto un FIP aperto, quindi non ho capito se fosse un fondo aperto o una forma individuale di previdenza. Comunque in ogni caso valgono per tutti quanti le regole della portabilità. Certo. Quindi trascorsi 2 anni può trasferire da una posizione all'altra. Per quanto riguarda i costi, se siamo di fronte a un FIP e non a un fondo pensione aperto, abbiamo diciamo 3 tipologie di FIP. Il FIP di prima generazione, che prima della circolare 551 del 2005, i FIP di seconda generazione sono stati fatti tra il 2005 e il 2006 e quelli di terza generazione, cioè dal 2007 in poi. E quelli di terza generazione ovviamente sono i migliori, non solo per trasparenza, anche per la questione dei costi. E i nuovi FIP in caso di trasferimento non possono applicare ad esempio spese particolari, costi cosiddetti precontati. Cosa significa? Che se ai FIP, soprattutto di prima generazione, venivano applicati i costi di caricamento iniziale anche del 50, 60, addirittura dell'80%, in caso di trasferimento ovviamente in un FIP, che se fosse un FIP di nuova generazione, questi costi devono essere quota parte restituiti all'aderente. Mentre il problema rimane sui FIP di vecchia, vecchissima generazione, cioè i primi FIP fatti di prima generazione, ad esempio quelli che vanno dal 2001 intorno al 2004. Qui spesso c'è un problema e le compagnie tendono a non togliere questi costi precontati in caso di trasferimento. È proprio per disincentivare evidentemente le fuoriuscite. Sì. Credo che sia così. Allora, sentirei anche le osservazioni di un promotore finanziario che ci interessano molto. Michele da Milano. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Michele, io ci dica. Io sono molto interessato all'argomento perché pur essendo un promotore che gestisco anche patrimoni di importanza notevole, però sento molto il problema di stare vicino al lavoratore nel costruirsi una pensione, perché sono d'accordo con quello che ho detto alle persone che oggi senza questo non si riesce a vivere per il futuro. Io però incontro delle difficoltà legate, primo a entrare nel mondo aziendale, cioè trovo difficoltà a fare consulenza al lavoratore perché è un ambiente chiuso, cioè è difficile poter entrare e a fare una consulenza aperta, disinteressata, anche perché veramente non ci tengo molto a farlo. C'è proprio la sensazione, Michele, mi scusi se la interrompo, ve la lascio concludere, ancora dello scippo del trattamento di fine rapporto. Io credo che ancora proprio il problema grande sia questo. È come se dall'azienda comunque se lo volesse prendere la banca senza capire poi la finalità. Poi chiaramente magari qualche operatore anche finanziario non farà un'opportuna operazione di consulenza, questo non dico di no, però c'è proprio ancora l'idea dello scippo. Io questo me lo ricordo benissimo anche quando facevamo le trasmissioni nel 2007. Prego Michele. Non solo dello scippo, ma anche il fatto che il lavoratore sposa il fondo del sindacato, il fondo diciamo di categoria, e non valuta magari altre alternative, scoraggiato anche dal contributo che non viene dato dal datore di lavoro se non si aderisce al fondo di categoria. E questo secondo me potrebbe essere una cosa da considerare, perché avere anche una persona che ti segue in tutti gli anni della tua vita lavorativa ti fa capire il montante previdenziale, come sta crescendo, come si sta muovendo, quali sono le opportunità per migliorare la tua pensione, credo che sia fondamentale. E il secondo problema che ho trovato difficoltà è avere una storia pensionistica, perché per poter accedere ai database dell'INPS devo poi passare attraverso un centro di un CAF, un centro di assistenza fiscale, quindi avere la storia di tutti i contributi per vedere dove si è arrivato, cosa possiamo fare insieme. Io trovo queste difficoltà nel costruire, nel portare il cliente ad aderire al fondo di categoria. Lei ha sentito Michele che il presidente dell'INPS, Mastrapasqua, è stato spesso ospite della nostra trasmissione e guardi, le assicuro che conosce perfettamente questo problema, ne è consapevole e ha tutte le intenzioni anche di volerlo superare. Michele, grazie, io giro le sue puntuali considerazioni al presidente della Covip. Presidente, ha sentito le difficoltà che questo ambito trova, no? Proprio nel rapporto anche con il lavoratore, ma ancor di più con le aziende. Sì, io le ho sentite, però mi chiedo perché su 22-23 milioni di aderenti teorici e a fronte di 5 milioni e 300 mila iscritti aderenti ai fondi pensioni, il promotore finanziario non si rivolge a questi altri 18 milioni di persone che sono prive di previdenza complementare. Cioè, io capisco il tentativo in un mercato concorrenziale, sia ben chiaro, di cercare di acquisire adesioni da parte di lavoratori, che però in genere, se esiste un accordo negoziale, quindi esiste un fondo pensione negoziale, aderiscono collettivamente a questo fondo negoziale. Perché poi c'è anche un problema di costi. Quello che il promotore finanziario, di cui ho apprezzato molto il discorso, dimentica è che l'adesione ad un costo, ad un fondo pensione negoziale, costa a volte un terzo del costo sopportato da chi aderisce ad un PIP, ad un piano individuale pensionistico. Che naturalmente insomma, vende anche la consulenza, quindi magari gli oneri sono differenziati anche proprio per le modalità della consulenza, no? È quello che dicevo prima. Vabbè. Quindi insomma, perché vanno all'interno delle aziende, dice lei, promotori, e magari non si rivolgono a tutto quel panorama anche di lavoratori autonomi che hanno grande necessità di essere documentati al meglio su questo tema. Riccardo da Bologna, vengo subito da lei, in 12 secondi ci faccia la sua riflessione, visto che è un lavoratore autonomo. Riccardo. Buongiorno, io sono un lavoratore autonomo, ho un fondo pensione da 11 anni, sono stato costretto a fare un fondo pensione aperto. Costretto da chi, Riccardo? Ah, dalla banca, mi hanno detto sei un lavoratore autonomo, puoi farselo così. Bene. Facciamo questo fondo pensione aperto. Non è dato sapere, cioè, oppure a grandi linee, in che cosa precisamente investono, cioè, quindi mi spiego. Se investono in bund tedeschi piuttosto che in titoli portoghesi, sì. Se gli chiedo ti verso questi soldi qui per i prossimi 25 anni, perché ne ho 41. Fammi un prospetto di quello che io arriverò a prendere in quel momento, almeno data la situazione attuale. Riccardo, io purtroppo la devo salutare, è un peccato perché la sua domanda sarebbe stata azzeccatissima per la metà della nostra trasmissione. Le prometto una cosa, se ha tempo di scriverci le faccio rispondere in via privata dai nostri consulenti, così almeno così avrà modo di discutere bene con la sua banca di quali informazioni ha assolutamente diritto, perché chiaramente un ostruzionismo di questo tipo credo che faccia arrabbiare moltissimo anche il presidente della Covip. Adesso noi abbiamo le nostre parole del risparmio in collaborazione con Assogestioni e il Salone del Risparmio che si svolgerà la prossima settimana a Milano. Radio 24 e Assogestioni presentano le domande del risparmio. Pronto, buongiorno. Il mio consulente finanziario mi ha parlato di fondi hedge, ma non so precisamente di cosa si tratta. Potete spiegarmelo? Grazie. I fondi hedge o fondi alternativi sono una particolare tipologia di prodotti di risparmio gestito caratterizzati da un'elevata rischiosità e riservati a una clientela evoluta, con consistenti disponibilità patrimoniali e un adeguato profilo di rischio-rendimento. Questi prodotti, che possono adottare sia la forma aperta che quella chiusa e investire in una platea di strumenti finanziari più ampia rispetto ai fondi comuni, sono infatti sottoposti a minori vincoli nella strategia di gestione e nella scelta dell'allocazione del proprio patrimonio. Per contro, questa maggiore libertà consente spesso ai fondi hedge di ottenere rendimenti anche di molto superiori alla media, secondo un andamento asimmetrico rispetto a quello del mercato. Le domande del risparmio. Io ringrazio Giuseppe Romano per essere stato con noi e soprattutto il presidente, senza togliere niente a Romano naturalmente, presidente della Covip, Antonio Finocchiaro. Presidente, io le chiedo naturalmente già da ora di una sua nuova presenza magari a fine maggio per raccontarci tutti questi appuntamenti e questa campagna informativa come sta andando, che ne dice? Problema. Benissimo, problema. grazie molte, io devo salutarvi perché siamo già fuori tempo massimo. Sulla previdenza complementare vi prometto che ci ritorneremo ancora più diffusamente nelle prossime settimane. Buona giornata a tutti.